GR24, il sole 24 ore. Fiat a Pomigliano, sindacati in rivolta contro Marchionne, no ai licenziamenti. È morto Pino Rauti, leader del movimento sociale, arrestato per la strage di Piazza Fontana, ma mai condannato. Berlusconi smentisce il dietro front su Monti, non è esclusa la sfiducia. Bufera intanto nei 5 Stelle, Federica Salsi replica a Grillo, maschilista come Berlusconi. Balotelli sulla copertina del Time contro il razzismo, spero di aiutare l'Italia ad essere un paese moderno. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione GR24, ben ritrovati. In apertura parliamo ancora di Fiat a Pomigliano. I sindacati sono pronti ad azioni legali se l'azienda andasse avanti con la messa in mobilità di 19 operai dopo il reintegro di altrettante tute blu iscritte alla FIOM, il sindacato metalmeccanici della CGIL, disposto dalla Corte d'Appello di Roma. Da più parti si sollecita l'apertura di un tavolo dopo l'intervento anche ieri di due ministri del governo. Vogliono scatenare una guerra tra poveri, ha commentato da Pomigliano Maurizio Rea, uno dei 19 operai della FIOM che sarà reintegrato. L'ha intervistato, sentiamo un passaggio. Raffaella Calandra. Siamo amareggiati per questa scelta, vogliono far scatenare una guerra che noi praticamente non accetteremo, anche perché noi praticamente stiamo rivendicando che dobbiamo entrare tutti i 5.000 in fabbrica. Come l'atmosfera all'interno dello stabilimento di Pomigliano? L'atmosfera all'interno dello stabilimento è brutta. Prima che avvenisse di questo annuncio da parte di Fiat che metterà fuori 19 persone, ce l'hanno testimoniata ai cancelli, che erano contenti che noi rientravamo in fabbrica, era ben visto da parte loro il nostro rientro. Ma è venuto fuori questo triste annuncio l'altro ieri, e in queste ore lo vedremo. Quello che succederà è una situazione che lascia la mano in bocca a tutti quanti. E più ampiamente della vicenda Fiat parleremo alle 13.30 in Italia in controluce. È morto stamane a Roma Pino Rauti, l'ex segretario del Movimento Sociale Italiano. Avrebbe compiuto nei prossimi giorni 86 anni. Da giovanissimo partecipò alla fondazione del movimento, che proveniva dalle ceneri del fascismo italiano. Nel 1972 fu destinatario di un mandato di cattura per gli attentati ai treni dell'8 e 9 agosto del 69 e la successiva strage di Piazza Fontana, ma nessuna di queste inchieste ha mai accertato un reato a suo carico. Si oppose alla svolta di Fiuggi. Sentiamo un passaggio di quella importante radunata del 1995. Mi accingo a parlare con l'abituale chiarezza, ma anche con nell'animo sentimenti contrastanti, di ansia, di amarezza, un po' di tristezza pure. Era il 1995 e il movimento sociale diceva addio al suo passato, diventava alleanza nazionale la svolta, ricorderete, guidata da Gianfranco Fini, alla quale Pino Rauti appunto si oppose. E continuiamo a parlare di politica, perché l'ex premier Berlusconi torna di nuovo sui suoi passi a proposito del sostegno al governo Monti. Valuteremo, aveva detto. Poi in una intervista a Bruno Vespa aveva corretto: non faremo campagna elettorale contro Monti. Oggi una nuova presa di posizione. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, è così. Prima il grido di guerra contro Monti, poi la marcia indietro e infine ancora la smentita di qualsiasi dietro fronte. Difficile davvero in questi giorni seguire il filo delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, parole che si muovono all'interno di un PDL che sembra sempre più nel caos. E dopo la minaccia lanciata da Villa Gernetto di staccare la spina al governo, in una intervista rilasciata due giorni dopo a Bruno Vespa per il suo ultimo libro, le cui anticipazioni sono state diffuse ieri, Berlusconi sembra frenare. Non faremo una campagna elettorale contro Monti, ma contro l'austerità imposta dall'Unione Europea. Poi questa mattina il comunicato di Palazzo Grazioli: nessuna contraddizione tra le due prese di posizione, nessun dietro fronte su Monti, nessun cambio dopo l'intervento a Villa Gernetto. Secondo l'ufficio stampa del Cavaliere, infatti, sono stati trascurati i passaggi importanti dell'intervista di Vespa. Quando Berlusconi dice che non farà campagna elettorale contro Monti, spiega la nota, intende non personalizzare la prossima scadenza elettorale, ma porre all'attenzione degli elettori tutta quanto alla strategia economica del governo dei tecnici. Intanto la campagna elettorale potrebbe invece arricchirsi di un nuovo nome, quello di Luca Corder di Montezemolo, che sempre Bruno Vespa confida di non escludere una sua discesa in campo per le prossime elezioni. Staremo dunque a vedere. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra, e staremo soprattutto a vedere se anche questa notizia riguardante una possibile discesa in campo di Montezemolo personale. Non sarà anche questa smentita notizia uscita dall'ultimo libro di Bruno Vespa. Continuiamo a parlare di politica perché c'è una bufera che sta attraversando e sconquassando il Movimento 5 Stelle per un duro botta e risposta tra il fondatore Beppe Grillo e la consigliera comunale di Bologna Federica Salsi. Sentiamo quali sono le notizie, che cosa sta succedendo. Elisabetta Fiorito. Sì, qua in vista per il Movimento 5 Stelle, ma anche per l'Italia dei Valori. Ricordiamo che Grillo poi aveva lanciato Di Pietro al Quirinale ieri. Le spaccature del Movimento sono sempre più evidenti, durissima infatti la replica di Federica Salsi, consigliere comunale a Bologna, che ha partecipato a Ballarò, una partecipazione contestata da Beppe Grillo, che parlava, ricordate, di Punto G, e la Salsi non ha digerito, dice Grillo è maschilista peggio di Berlusconi, non ha contestato quello che ho detto, ma a me come persona la sua frase sul Punto G è veramente degradante, roba da medioevo. E Salsi contesta anche la candidatura lanciata da Grillo di Antonio Di Pietro al Quirinale, Beppe ha tradito il Movimento. Nell'Italia dei Valori poi continua la rivolta contro Antonio Di Pietro dopo lo scandalo degli appartamenti fatto da Report. Pancio Pardi spiega che il capo ha sbagliato tutto e c'è bisogno di un chiarimento immediato. Sempre più lacerato poi il rapporto tra Di Pietro e il capogruppo e TV alla Camera Massimo Donati, che attacca anche sulla candidatura dell'ex PM al collo e di Grillo a Premier. Sarebbe come il Messico di Pancioville e Zapata, dice Massimo Donati. Mentre per il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, la spaccatura tra Di Pietro e Donati ormai è insanabile, per cui per il Movimento 5 Stelle, per l'Italia dei Valori, ci sono dei momenti veramente difficili. Per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. E grazie Elisabetta sulla situazione politica, su questa lunga campagna elettorale che ormai sembra attenderci. Tiriamo qualche riflessione insieme a Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Che siamo ormai in campagna elettorale non c'è dubbio, e che questa condizione si riverberi sui lavori parlamentari, soprattutto quando si tratta di leggi economiche o comunque che comportano delle spese, è sicuro, anzi dovrebbe essere evidente a tutti. Il problema è che allo stato delle cose questa campagna elettorale si protrarrà per mesi, visto che la legislatura finirà di morte naturale solo all'inizio del prossimo aprile. Le forze politiche avrebbero un modo per accorciare i tempi ed è approvare subito una buona riforma elettorale sulla base di un accordo responsabile, come li ha più e più volte ammoniti a fare il Presidente della Repubblica, ma non accade. Si preferisce una campagna elettorale lunga e sfilacciata che accentua le fragilità del nostro Paese a un colpo di reni che sarebbe nell'interesse generale ed eviterebbe tra l'altro una tensione sotto traccia con il Quirinale. La crisi italiana è anche in questa contraddizione. E ora continuiamo a parlare della misura che prevede l'accorpamento delle province, che sta suscitando alcune polemiche inevitabili. Il governo adesso però metterà mano anche agli enti governativi sul territorio, dalle prefetture alle sovrintendenze, passando anche per le questure. E proprio per quanto riguarda i presidi di polizia il discorso si fa ovviamente più delicato, ci va di mezzo la sicurezza. Il governo ha assicurato che verranno analizzati i fattori quali la criminalità e la densità dei reati, ma alcune questure spariranno, ci saranno al loro posto dei commissariati. Le critiche, anche in questo caso forse inevitabili, del sindacato di polizia. Sentiamo Nicola Tanzi, segretario generale del SAP, al microfono di Valeria De Rosa. Ho appreso, come tutti gli altri, dai giornali di queste indiscrezioni di ipotetici tagli o declassamenti delle questure. Adesso chiederemo conto a chi di competenza e quindi alla politica e al ministro dell'interno, perché non ci possiamo permettere di abbassare ancora il livello di guardia sulla sicurezza. Noi avevamo assicurazioni dalle varie riunioni che avevamo fatte col Dipartimento e col Ministro che non sarebbero stati toccati in alcun modo i presidi di polizia, quindi sarebbero rimasto questure e i presidi che oggi abbiamo. È chiaro che il nostro problema più che questo era il turnover, perché il turnover con la possibilità di assumere il 20% delle persone che vanno in pensione con un organico al di sotto di 11.000 unità già ci preoccupava moltissimo, perché di fatto saremo costretti a chiudere numerosi posti di polizia, come i carabinieri saranno costretti a chiudere numerose stazioni dei carabinieri, quindi ci sarà una riduzione sensibile del personale sul territorio, una riduzione sensibile dei posti di polizia sul territorio, con una riduzione sensibile della sicurezza per i cittadini, perché di tutta questa storia chi ne farà le spese saranno i cittadini. Così dunque il rappresentante del sindacato di polizia sul declassamento di alcune questure a commissariati. Adesso invece cambiamo argomento, parliamo di economia, perché aumentano le difficoltà per le piccole e medie imprese dell'Eurozona. L'accesso al credito si è ulteriormente deteriorato, scrive nel suo settimo rapporto la Banca Centrale Europea, che parla proprio dell'accesso al credito delle piccole imprese, che tra aprile e settembre ha registrato una flessione del 22%. Sempre più ostacoli dunque sulla strada della crescita europea. Dagli Stati Uniti, dove gli indicatori dicono fortunatamente che le cose vanno un po' meglio, oggi è atteso un dato importante che potrebbe dire qualcosa sul futuro dell'economia non solo americana. Il dato sulla disoccupazione, ago della bilancia anche nella corsa alla Casa Bianca quando mancano 4 giorni al voto. Nell'attesa, le piazze finanziarie europee sono oggi poco mosse, e allora andiamo a vedere. In questo momento a Milano l'indice FTSE MIB è in ribasso dello 0,5%, a Parigi il CAC 40 è in ribasso dello 0,05%, praticamente invariata a Francoforte. Uno sguardo ai principali titoli della piazza milanese: a guidare i ribassi Telecom, meno 3%, Mediaset meno 2,5%, Banca Popolare dell'Emilia Romagna meno 1,9%, anche Fiat, di cui abbiamo parlato, meno 1,4%, in controtendenza Monte Paschi Siena più 2%. E dicevamo, tra 4 giorni l'America al voto. Prosegue il racconto nei nostri giornali radio di come stanno andando queste ultime ore di campagna elettorale. Mario Platero da New York. Archiviato Sandy, i candidati tornano all'attacco l'uno dell'altro. Mitt Romney ha rispolverato un tema che gli è stato caro nei mesi scorsi, e cioè l'Eurobashing, l'attacco all'Europa. Ha detto: se Barack Obama sarà rieletto, gli Stati Uniti diventeranno come l'Italia, come la Spagna e come la Grecia. Poi ha anche aggiunto: forse anche come la California, cioè come dei paesi o degli stati indebitati per difendere, proteggere, sostenere un sistema di protezione sociale ormai superato dal tempo. Ecco, questo attacco è un attacco molto diretto contro Barack Obama, ma non è chiaro se funzionerà, perché il presidente nel frattempo è riuscito a rimettersi in carreggiata, i sondaggi sembrano essere più a suo favore, soprattutto ieri ha incassato un endorsement molto importante, quello del sindaco Michael Bloomberg, il quale ha detto di aver deciso di votare per Barack Obama dopo l'uragano Sandy. Barack Obama, ha detto, è stato l'unico fra i due candidati che ha dedicato una parte del dibattito all'ambiente, al cambiamento climatico, e uno dei problemi del nostro tempo. Voterò per lui. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E a proposito dell'uragano Sandy, ci sarà questa sera un concerto proprio per cominciare a organizzare la beneficenza. Come sempre l'America si mobilita in questi momenti, ma sarà anche un grande momento di spettacolo. Marta Cagnola qua in studio con noi. Sì Alessio, come è già avvenuto in più di un'occasione, insomma lo sappiamo, i concerti di beneficenza in America sono una tradizione molto importante. Anche le star della musica si mobilitano per raccogliere fondi, in questo caso per la Croce Rossa. Lo faranno questa sera con un concerto che andrà in onda sulla NBC. Il concerto è stato annunciato da Bruce Springsteen e John Bon Jovi, entrambi peraltro nati proprio in New Jersey, una delle zone più colpite. Sul palco del Rockefeller Center ci saranno anche Christina Aguilera, Sting, Jimmy Fallon e Billy Joel. I proventi dell'evento, lo dicevamo, andranno alla Croce Rossa Americana. Tra l'altro, lo stesso Bruce Springsteen in questi giorni ha tenuto 2 concerti del suo tour, uno proprio ieri sera, ringraziando i funzionari di polizia e i vigili del fuoco per gli sforzi fatti nel soccorso. Tra l'altro parleremo di queste e di altre notizie tra poco nel GR Spettacoli. A tra poco dunque con Marta Cagnola in GR Spettacoli. Adesso, prima della pausa per il traffico, un'altra notizia abbastanza incredibile che Arriva da Bergamo per lo Stato, era al lavoro in ospedale, ma in realtà era su un campo da tennis. Un dirigente medico di una struttura sanitaria pubblica di Bergamo è stato così scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha accertato che il professionista si assentava dal lavoro per ore e andava appunto anche al circolo del tennis, partite che sono state riprese in dei filmati da parte dei militari. Adesso l'uomo è indagato per falso, truffa aggravata e danni di ente pubblico. E adesso riprendiamo però dall'estero, andiamo in Siria, dove continua a crescere il numero delle vittime tra i soldati governativi ma anche tra i ribelli e la popolazione civile. E a proposito dei ribelli, avrebbero conquistato una importante città. Con o senza riflettori, in Siria la situazione continua ad essere drammatica. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, ieri sono stati uccisi 78 soldati governativi e almeno 104 tra ribelli e civili. Rivendicando la liberazione di Sarakeb, località strategica nel nord della Siria, attivisti e ribelli denunciano oggi atti immorali e a volte disumani da parte di militari e miliziani fedeli ad Assad. Ma a loro volta i ribelli avrebbero sommariamente giustiziato diversi soldati governativi, e lo dimostrerebbe un video diffuso su internet che le Nazioni Unite intendono esaminare attentamente. Le forze di Assad, intanto, hanno bombardato Sarakeb e i suoi dintorni oggi, così come fanno ogni qualvolta non sono più in grado di raggiungere con la fanteria le località conquistate dai ribelli. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ora andiamo in Grecia, dove la Corte dei Conti, lo sapete, ha bocciato come incostituzionali gran parte delle riforme pensionistiche che sono previste nel terzo memorandum che a giorni deve essere approvato dal Parlamento greco e che costituisce l'impianto del possibile accordo con la Troica da parte di Atene. Intanto però a far discutere nel paese è soprattutto l'ipotesi di una commissione parlamentare per esaminare una lista di possibili evasori fiscali, una commissione chiesta dalla sinistra, una vicenda che ha alcuni parallelismi anche con l'Italia. Sentiamo. Non accenna a diminuire la polemica politica sulla cosiddetta lista Lagarde, i 2000 cittadini greci che con conto corrente aperto presso la filiale della banca HSBC di Ginevra. Dopo che Kostas Vaxenavis, 46 anni, forse il più noto degli giornalisti investigativi greci, è stato assolto dall'accusa di violazione della privacy per aver diffuso dati della lista dei presunti evasori fiscali sul suo settimanale Ok Doc, è il Parlamento ellenico alle prese con l'impopolare imposizione di nuove misure di austerity che ha preso l'iniziativa chiedendo a sorpresa la costituzione di una commissione d'inchiesta sulla lista Lagarde. Nel mirino dei deputati greci sono finiti così George Papakostantinou, l'ex ministro delle finanze del governo Papandreou, e Evangelos Venizelos, anche lui ex ministro delle finanze sempre dell'esecutivo guidato da Papandreou, oggi segretario dello smagrito PASOK. Le due cariche politiche che hanno ricevuto dall'allora ministro delle finanze francese Christine Lagarde, oggi direttore del Fondo Monetario Internazionale, la parte ellenica della cosiddetta lista Falciani. Ora Venizelos, il segretario del PASOK, è in grave difficoltà poiché parte dei suoi 36 deputati hanno minacciato di non votare l'accordo con la Troica sulle misure di austerità se prima non si farà chiarezza sulla lista Lagarde dei presunti evasori miliardari, che il conto finale non lo pagano mai, nemmeno quando il paese va in bancarotta. Vittorio Daroldi, Radio 24, Sole 24 Ore. E ora torniamo in Italia per un filone d'inchiesta sugli appalti truccati che arriva a lambire anche il Ministero degli Interni. C'è infatti un esposto anonimo che denuncia appalti truccati da parte di dirigenti del Ministero dell'Interno, accuse tutte da dimostrare al momento ma che potrebbero arrivare anche molto in alto. Se confermato, il contenuto dell'esposto anonimo che denuncia brogli nell'assegnazione degli appalti affidati dal Viminale arriverebbe a colpire il numero 2 della polizia, Nicola Izzo. Nelle 20 pagine recapitate un mese fa al ministro Anna Maria Cancellieri vengono segnalati presunti casi di malaffare nella gestione degli appalti e delle aste per l'acquisto di impianti tecnologici, lavori per centinaia di milioni di euro. Il ministro degli Interni ha subito informato il capo della polizia Antonio Manganelli, secondo il quale chi ha scritto quella lettera è comunque una persona molto informata, anche perché gli appalti assegnati dal Viminale sono segreti. Il Corvo nella sua lettera ha anche fatto riferimento al suicidio del vicequestore Salvatore Saporito, che si è sparato un colpo in testa a marzo dello scorso anno. coinvolto nell'inchiesta della Procura di Napoli su appalti legati al gruppo Finmeccanica Saporito, secondo l'autore della lettera anonima, non si sarebbe ucciso per quella indagine, ma perché sottoposto a un pesante mobbing all'interno dell'ufficio logistico del Viminale per essersi opposto al presunto sistema di appalti truccati. Anche questo adesso è all'attenzione della Procura, che dovrà indagare sull'identità e l'attendibilità del corvo. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mario Balotelli in copertina sul prestigioso settimanale Time con il titolo Il significato di Mario. L'attaccante è intervistato sul calcio, ma anche sul razzismo e sulla sua vita privata. Mio figlio, dice dell'imminente paternità Balotelli, avrà bisogno di una mamma capace di dire di no, perché io lo amerò così tanto che forse non sarò in grado di dirglielo. A proposito invece dei pregiudizi che ancora frenano nel mondo l'accettazione degli uomini di colore, Balotelli dice: spero di aiutare l'Italia a essere un paese moderno come l'Inghilterra e l'America. E ora parliamo di calcio, vero? Carlo Genta, sì, perché se Balotelli finisce sul Time non c'è più religione. Vabbè, sì. Forse avevano anche loro bisogno di riempire questa copertina con... In questo momento con le presidenziali americane, beh, se le notizie ce ne fossero, no? Balotelli, è evidente. Sai, sulla questione del razzismo tutto. E dell'identità europea probabilmente sì. Ci sono dei contenuti che poi vedremo, perché queste non sono delle anticipazioni. Però sì. Carlo... Parliamo di calcio, parliamo dell'anticipo di domani che vede le due... Sabato dei lunghi coltelli. Dei lunghi adesso. Coltelli, Inter-Juventus, cominciamo a parlare di questo. Inter-Juventus, innanzitutto diamo tutti insieme in coro un in bocca al lupo a Tagliavento, che è l'arbitro che è stato designato per questa partita. È lo stesso fischietto del gol di Muntari, ve lo ricordate, a San Siro in Milan-Juventus di qualche mese fa. Chiaramente lì la colpa fu più del guardarine che sua, però tant'è, Tagliavento sarà al centro del plotone fin troppo numeroso degli arbitri che dirigeranno questo Inter-Juventus, battezzato ovviamente da tutti in maniera eccessiva partita scudetto, quando partita scudetto il 3 novembre non può essere. Certamente sono l'Inter la squadra più in forma del campionato in questo momento, è reduce da 6 vittorie in campionato se non ricordo male, ha trovato un suo assetto che spero per l'Inter e per gli interisti non cambi domani con le tre punte Cassano, Milito e Palacio. Dall'altra parte una Juventus che ha stabilito un nuovo record, 28 punti sui 30 disponibili, mai nell'era dei tre punti era successo che una squadra riuscisse a fare così tanti punti appunto nelle prime 10 giornate di campionato. Oh, io è strepitosa, ci sono due panchine che diversamente sono più che traballanti, sicuramente quella della Roma forse, e poi c'è anche il Milan. Beh, a Roma aspetta, presto, sì. C'è il derby la settimana prossima. Forse una parte dei tifosi sperano che traballi quella panchina, così si finisce di perdere a Roma, no? Ma no, sai, Zeman va preso così, è chiaro che la Roma ha un organico che non vale la sua classifica, vale molto di più di quei 14 punti che stanno scritti in classifica, anche se Zeman dice che gliene ha rubati 7 gli arbitri, però questo è un parere suo. È chiaro che è una squadra che invece di equilibrio ne ha pochissimo, non credo traballi quanto quella del Milan, quanto quella di Allegri, che domani ha un impegno apparentemente molto semplice, che è in casa con il Chievo alle 18, però è un impegno estremamente scivoloso perché non dovesse fare il risultato pieno in questa gara, diventerebbe a quel punto difficilmente difendibile. Alessio. Ok, grazie a Carlo Genta, ci fermiamo qua con questa edizione di GR24, ritroviamo il pomeriggio sportivo con tutti i convocati alle 14 naturalmente, adesso vi lasciamo agli aggiornamenti di borsa e poi naturalmente all'Italia in controluce. Da Alessio Maurizio in studio, Paolo Corleoni in regia, l'augurio di una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola. Il box office italiano premia James Bond, incassi in forte crescita per 007 Skyfall. Dopo l'esordio di mercoledì da circa 700.000 euro, la pellicola ha raccolto altri 1,86 milioni nella sola giornata di ieri, con una media di oltre 3.200 euro per sala. Approfitta della festività anche Viva l'Italia di Massimiliano Bruno, che ieri ha raccolto 626.000 euro, media di 1.300, per un totale di 2,5 milioni circa dopo 8 giorni di programmazione. Le star della musica americana si mobilitano per raccogliere fondi per le vittime dell'uragano Sandy. Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi, entrambi nati in New Jersey, hanno annunciato un concerto che andrà in diretta questa sera sulla NBC. Con loro Christina Aguilera, Sting, Jimmy Fallon e Billy Joel. E nei concerti di questi giorni Bruce Springsteen ricorda le vittime dell'uragano Sandy e ringrazia le autorità per i soccorsi. Lo ha fatto anche ieri sera in un concerto, ne stiamo ascoltando un frammento, alla Penn State University di State College in Pennsylvania. Intanto Milano si riprende dalla giornata di delirio per gli One Direction, una band inglese fenomeno pop del momento a livello mondiale. Escono dall'X Factor inglese e ieri sono stati ospiti della versione italiana, su Sky. Centinaia le fan arrivate per loro da tutta Italia. Sono innamorata di One Direction. Sono fantastici, cioè ogni volta che li vedo mi vengono i brividi. Tutti hanno avuto un idolo nella propria vita, almeno da ragazzini, e loro sono i miei. Sono fantastici, non posso dire nient'altro di più, cioè... Emoziono con le loro canzoni, le loro voci, cioè arrivano dritte al cuore. Guardi, io sono qua perché ho accompagnato mia sorella, perché è pazza per gli One Direction e l'ho accompagnata. Com'è stata allora come giornata da accompagnatrice? Pesante, però si fa questo ed altro per la sorella. La fama della band viaggia soprattutto sui social network. I'm very lucky to have such a strong following on things like Twitter and Facebook, I think. Siamo fortunati ad avere tanta gente che ci segue su Facebook e Twitter, ha dichiarato ieri in conferenza Harry Styles. Quando eravamo più piccoli, noi non avremmo nemmeno potuto immaginare di sentirci così vicini alle nostre band preferite. Per noi è importante far sentire la nostra presenza attraverso i social network. Mogol festeggia 50 anni di carriera e lo fa lunedì sera al Teatro Nazionale di Milano, in una serata che così ci racconta lo stesso Mogol. È uno spettacolo che è la prima volta che faccio, perché a Roma l'abbiamo fatto a Roma, nella piazza del Campidoglio, e sono venute 5.000 persone inaspettatamente, perché è uno spettacolo dove si suonano le mie canzoni, dove 5 del conservatorio dimostrano come si può imparare il pop di livello internazionale. Parlerò io delle canzoni riguardo a come sono nate, a fatti che riguardano il background, ossia la nascita, eccetera, eccetera. E poi ci sarà Lavezzi, Mario Lavezzi, che farà delle canzoni anche lui, insomma, farà un paio di canzoni. E per il GR Spettacoli è tutto da Marta Cagnola. Ancora l'augurio di una buona giornata.